sono letterata bene, perché esce bene, cavolo. Esce bene, bene, bene. Un bel segnalone hai anche. Mi sono impegnato a aggiustarla, non è che l'ho fatta così, però mi sono impegnato. Vedo. Cioè, mi sono battuto un burume. Poi te l'ho detto, per avere una saldatura perfetta, l'ho passata nella pietra della mola, quella da banco. Cazzo, devi vedere come pompa quel saldatore, è una cosa incredibile. Tanto comunque, ma tu poi tu ci sei la corrida tu? Ma non io. Ah, tu no, è un quello che ha preso il biglietto. E chi l'ha preso, tu? E allora? Cappa, Sara. E io sono sul palco così, qua, una scenetta. A fare? Cioè vogliamo vederti, dai. C'è anche Gianni, c'è. Cappa, no, io non canto. Canto io. Lo so che canta Sara. Ciao Sara. Cappa, mi Sara e Giulia ti sto ascoltando. Ciao! Ebbene, cosa mi canti, Sara? America. America ha detto. Su. Ma picchi negativi c'ho, no? America di Giannanani? Eia! È bella quella lì. Non la so cantare, no? Divido lui. E allora non canti invece di far cantare solo la Sara? No, è lì la concorrente, a me... Io faccio quella dell'estate. Ma non paga la concorrente, giusto? Se paghi su manco io. Ah, euro abbiamo pagato il biglietto. Giù siamo, in tribuna. Giù, come si chiama? Ho capito. Si chiama già, c'è il... Ma, cazzo, non mi ricordo i nomi. Mica dovete portarvi i baretti e roba così, lo sapete, sì. Vabbè, tu già lo sai, lui. Fischietti, roba del genere. E io faccio i frusci. Mi sa che ricco pure due coperchi di pentole anche. È roba che fa rumore. E sono già andato due volte. Sono così da Gianni, se vai cacche coperchi, cacche tromba, bernacchietta, gatto nel gioco, roba così me. Già lo so, ma non so se ci vengo perché Elena non c'ha Green Pass, quindi non ci può venire. Vedi ci sono, mi fa, dai. E vai avanti, ciao. Un attimo, scendo giù, cosa è successo, sa? Qui sono per mezzo, e adesso stiamo andando, dai. Sta venendo anche lei a chiamarmi, dai. Ci sentiamo, ragazzi. Ciao a tutti. Buona serata, buon continuo queste ore. Ciao, già. Ciao, Gianni, ciao. Siamo sempre troppo a zero. La bibbia non freddo, porca paletta. Ciucche. E qua poco di bomboni, ove? E voi come state? Tutto a posto, sì? Insomma. Allora Antonio, sei pronto per l'invasione della Russia? Eia, mi butto la gaganda io. Vedrai che se ne fuggono tutti, i russi. Ma l'invasione della Russia in Italia? No, noi andiamo a invadere la Russia. Abbiamo deciso, io porto pane e salsiccia, lui porta il vino. Ma io devo unirsi bucarotti. Ma perché fare queste guerre, queste cose? No, veramente io non riesco ancora a capire. Interessi, che vuol dire soldi. Antonio porta la vodka, io porto il vino, anzi io porto la birra, Marco porta il vino, siamo a posto, andiamo in Russia. Luca, che ricordi, ci sono numeri serie, almeno in una scatola c'era, non fa niente, no, tanto lo cancelli, ma ti serviva per tenerla o per vendere un apparato con la scatola originale? Non devo vendere nulla, ma questa è la scatola originale, perché ho la scatola originale del portatile, capito? C'ho la scatola originale del wattmetro, c'ho la scatola originale dell'altro portatile, il Mark 3. E voglio anche, vabbè, il telefono la trovi, non l'ho mai vista, forse non esiste, o esisteva. E sarà possibile avere la scatola del 2009? E così sono io. la mia camera è tutto, si assembra in cosa di un ricettatore, tutto scatole. E mamma, perché non le butti queste, cosa te ne fai? Non è che moduli con la scatola. No, e ho detto no, io voglio scatole originali, non mi interessa, è una sorta di feticismo che ho in caso di rivendita, lo vendo con la scatola, sta tutto minimo fino all'ultima vite e l'ultimo fusibile, ci deve essere tutto. Oh, i ragazzi, io appena che vi passo il suo mese dopo la mondetta, la magistina roba imbarrato. Ma non andi. Vabbè Marco, la scatola me la conservo, capito? Come ci ho conservato, infatti Maria le voleva buttare, no, guai, gli ho detto, guardate. Cosa mi butti le scatole delle. No, la Rosmetro, l'ultimo che ho comprato, dai, quello dei CX200. Cos'è che c'è? Il numero di serie? Sì, c'è un segnale, forse è un break, fatelo entrare un attimino che si luce il numero di serie dell'apparecchio che c'è là dentro, ma è attaccato tipo adesivo, lo puoi togliere quello, capito? Adesso ti dico le scatole che ho io, è presente? Ho le scatole addirittura dei videoregistratori, quelli a videocassette, c'è roba di 20 anni fa, è presente la GBC? Torino, ecco, quella è la mia camera. Esagerato. No, non a quelle belle, ma ci stiamo lavorando. Avanti il break, avanti. Avanti il break. Beh, non sai come te lo vai, guru guru lo vai, capo di gatto. No, c'è che gallinata. Ah, non era un break, è il solito che sparnacchia, così è. Sì, sempre un modo di segnare. Sono 8:30 qua, 8:30, buce tutto. Tanto qui su 4, Sì, sicuramente. E dove? Ma cos'è, portatile? O dalla macchina o... Io per carità, ma io entro a gaggani, sono i gaggadi. Sente guasta, cos'è? Perché sei così basso? Luca! Luca, mica ti sta chiamando Franco da Sorso. Ciao Antonio! Ciao Franco, buonasera! Ciao Franco! Ho detto, perché sei così basso? Sono sganciato. Aspetta, vediamo un po' se ti posso aiutare. Guarda adesso, migliorato. Adesso è migliorato al 100%, sia di segnale e radio. Hai visto, ci vuole poco. Questo da, se o no, una cinquantina di watt, non sono pochi, quello che serve, va bene. Vabbè, io qua sto usando solo quello della radio. E adesso bene che sto arrivando in confronto da ieri. Ieri o oggi, vabbè, sì, ti ascolto bene, dai. Diciamo che è il flusso del QRM è sotto, ma ti ascolto bene. Capo, vabbè, tu sei in una zona... Butto la bottante. Ma il butto la bottante, bravi. Ma già lo sappiamo chi è. Marco, hai capito chi è, sì. Punta a capo. Allora, punta in virgola. Non gli ha dato, vado in un guaccio, ma è un bravo ragazzo. Cazzo ragazzo, io sono ragazzo, non lui. Cazzo, il comportamento è il nonno. Forse è bombolo il più giovane qua, tra noi tre. Franco, mi copri con 3 watt. Cazzo che ti ascolto, Marco. Sempre 3009, sempre 3 watt. 3 watt reali. Va bene, ti ascolto sempre. A meno che non ci sia qualche stronzo che si mette in mezzo. Ma perché Franco oggi sganciato non mi senti? Sì che ti sento sganciato, ma ti ho detto solo, perché sei così basso? Va bene, anche io sono 6 watt, da 5 watt questo, stesso baracchino di Marco, 3009. Ho capito Franco? Sì, va bene, va bene. A voglia. Antonio invece l'ascolto come che sia qua. Avanti Antonio. Capa, ma quanto mi ascolti lì a Sorso? Sì, un segnale di 8, ma una radio bella di 5. Capa, vabbè. Sotto me, sostanza. Vabbè. No, io segnali non li sto usando perché si abbassa quello che c'ha la radio. Capa. ma no, fermo casi a Gigi a vedere, a fare che passaggio. Marco, guarda che ho trovato il trimmer dell'FM, devi girare quello che c'è scritto DEF FM, deviazione. Tu giri piano piano, appena appena, ti metti un apparecchio che c'ha del frequenzimetro e ti sei centrato e sei a posto. In trasmissione. Sì, quello in trasmissione, Antonio, quello stadio di trasmissione, a me interessa centrarlo in ricezione. E poi resta il problema della banda passante che è stretta. E quindi me lo tengo così. Ehi, devo fare anche ricezione, non è che sia solo trasmissione, fa tutti e due qua, hai capito? Tutto il mio 4005, ma 4, il mio 3009 mi sono centrato, sia in trasmissione che in ricezione, adesso è perfetto. Ciao Fabio, buonasera, ben sentito. Ciao, ciao Antonello. Antonello, ti volevo chiamare al telefono, ti volevo dire che alla stazione hanno ben messo uno con la gamba più lunga. Ho capito, alla stazione c'è uno con la gamba più lunga. Beato lui, vuol dire che se la deve mettere dietro. Ciao, comunque Antonello, ben ascoltato. Ehi, ciao, ben sentito anche a te. Qui ci sono stanco molto proprio qua, tra Giampiero, questi due baracchini, oggi sono crepato, insomma. Figurati che ho dovuto prendere dal letto Giampiero, pesa quanto una macchina, metterci una carrozzina, farlo salire su, cioè scende giù, poi salircelo sopra, poi toglierlo dal letto e rimettercelo. Io sono morto, ecco, ok, dai, ciao Antonio, ci sentiamo, dai, mi stavo chiamando a mangiare. Con il sorcio, mi senti? Ciao Luca e Antonio, ci sentiamo alle prossimine, buon proseguo, buon tutto. Ripeti a tu. KK, guarda per come arrivo a sorcio. Hola. Il segnale non è aumentato niente, neanche del radio. Ecco, sto usando un'altra roba, sto usando. Sì, è uguale a poco fa, tu. Allora, così. Controlla che c'è qualcosa che non va. Lasciare. Ciao, ciao. Ciao, bagappa. Ciao, Franco. Buona cena. Allora, hola. C'è qualcosa che non va perché deve scaldare. Capito? Fallo scaldare, poi ti faccio schiattare io a fine mese. Appena hai tiro Gigetto. Non mi fa arrabbiare, se no questo qua lo porto in via Milano, la potete dormire tanto. Devo stare una vicina dove sei tu in via Milano, mira, la gente, a fine mese, adesso me devo incassare dopo il 2 o il 3. Poi mi porto la gente qua a casa, cambio capo, perché sennò rischio di bruciarlo e mi metto a pompare. Un attimo che c'è un problema con Sara, non funziona il telefono, dai, ci sentiamo troppo. Un po' ci sono poi abbordanti, ma passi giù. Ah, già lo so che passo io. Io sono liscio, vedi, se mi metto, se attacco lo spirito, vai, me lo mangio del tutto. Avanti il bippini, avanti, passami a fare la pannacchia, eh. Segnale 5, ma la radio sempre basso, quasi 1. Adesso sì, ti sento, chi sei? Ah, salutoni Mirko, Alghero, me l'hai ascoltato, segnale 7. E a voi ci siamo parlati, Alessio da Sassari, compagnia di Antonio e Marco Condo. E io no. E Luca, e più c'è anche Franco da Sorso. Io un po', mi ascolti Mirko? Io sento basso il radio un po', c'è un po' di querella. Segnale 8, ma Luca, radio 5. Ah, è già buona, là. Va bene, io purtroppo non ti sento perché c'è un po' di QRM. Se puoi fare qualcosa, avanti. Ciao Luca. Ok, mi ha salutato, avanti. Ci sono? Ciao Tino, sì. Chi è che mi ha salutato? Avanti. Ciao Luca, vabbè, avanti Tino. vedi un po' se ascolti a Mirko di Alghero. Mirko di Alghero, sottone a tutti, Mirko di Alghero, mi ascolti? Vabbè, sono piccolo, basso e nero. Ciao Pino. Ciao Marconi. Vediamo se non faccio brutta figura. Mirko da Alghero, mi copi, Marco da Sassari. Vabbè, con 50 watt, grazie. 50 watt ho messo, se no tutti quelli lineari sono qua, io devo essere piccolo e nero. Vai Pino. 50 watt sì, Marco. No, io non ne ho amplificatore accesi. Ora. Marco, con 50 watt sì. Sì, praticamente io questa l'avevo misurata, allora con 4 watt esatti, modulati, cioè non di più, 49 watt di portante, misurato col Daiwa. Ah, c'è la radio o c'è l'amplificatore? No, è come il tuo, tu il 7, io il 2, 203. Ah, via, va bene, dai. E io arrivo a 8, tu arrivi 9. Beh, ce l'ho davanti, dai. Vabbè, fateci dare che mi sto caffeinizzando. Riprendete, che non so più che c'è in rotta, mi ero assentato. Vai, che ne so, Antonio, sì. Vabbè, fate girare, già è chiara la modulazione, sì, ce l'ho, mi è grave. La tua è chiarissima la modulazione, io l'ho appena acceso questo, quindi non posso pretendere, sto andando con una 20-25 watt. Tino non ne ha bisogno di lineare, gira gira, arriva bene già di suo. Comunque, vabbè Mirko, buona serata, ben sentito, ti faccio vedere la differenza da così a nudo e crudo con 3 watt. Così sono 3 watt Mirko, mi copi ancora? Sì, si mangia anche quella. Dai, fate girare, io mi sto sentando. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco. Avanti, buon po'. Cavo, già so che no. Andiamo bene, tutti siamo bene, tutti chiari, e non ha nessun problema, tanti quindi a voi. Aspetta, Mirko. Aspetta, Antonio. Ehi. Ehi, guarda che quell'FM mod non è assolutamente la trasmissione, quella è la deviazione in FM, la deviazione non è però la centratura in trasmissione, è un'altra cosa, e agisce esclusivamente sulla trasmissione, guarda bene lo schema, oppure quello schemino a blocchi a colori, e te ne accorgi, a dopo, ciao. Schema a blocchi a colori non da poterlo, quindi me lo dovresti mandare, io ho provato la deviazione stasera, grazie a Dio, trasmissione centrata, anche ricezione. Non ho toccato nessun'altra cosa. Vabbè, poi c'è, già lo sai, ci sono i palitrimi avvicinati, coso, AM, poi SRF, eccetera, eccetera. E poi per spostarti sotto il commutatore dei canali c'è un trimmer di colore celeste, c'è celeste sotto e bianco sopra, e basta girare quello lì appena ti centri perfetto. Ebbene, ce la facciamo qua, ora senti che spinge. Mirko, ci sei ancora? Mi dai un controllo per favore ora? 8, aspettati. Va bene, da Santiago 5 a 8, davvero a me mi viene un po' in saliva, capo, dai, vabbè, sono arrivato anche al ghiera allora, d'accordo, vai Marco. Marco sta pigliando il caffè, perché è il marrasco, capito? Oi Tino! Oi Antonio, ciao! Stavo provando l'opera accesa per il freddo. Antone, il valvolare però è freddo, non sta andando come dovrebbe andare. Il mio è caldo, com'è? A me Alghero è un po' difficoltoso a rifarci. Io lo sai che va. Sta veloce, un'altra cosa, ma qua ho questo pulita. Comunque dai, già mi faccio sentire. Gappa. E io come arrivo, che ce l'ho attaccata, se è bella calda la valvola. Per tu, Mirko, aspetta che ti mando avanti a Antonio, Mirko, vai Antonio, Antonio! Ehi, avanti, ma lo sento molto bene, no, Mirko? Ecco Mirko, questo era Antonio, quando arriva? Bene, bene, bene, e io invece quando sto arrivando ora? Quanto ti ha detto? Aspetta, aspetta Antonio, se tu non lo senti, e lui sta parlando, Antonio, tu arrivi, Santiago 8, un attimino solo Antonio. Sto accordando, ecco. Bene, bene Mirko, dai, ora diciamo che dovrebbe andare quasi al massimo della sua potenza l'amplificatore, dai. Non ha migliorato niente? Va bene, va bene, va bene. L'importante è che la radio si faccia sentire, ecco. Comunque, buonasera, Tino Muscolo da questa parte, Mirko. Antonello. Sì, dimmi Tino. Da te non distorce, è vero? Sì, qua non distorce niente, sei a posto, no? Appena appena non è che distorce, è compressa, è capito, appena appena però. Appena appena, grazie a te, non è accordato bene. Boh, ecco qua, così è, dovrebbe essere accordato, guarda se, se va a comprimere. Adesso va molto meglio, detta. Era tan acceso, a quando scaldare questo ci vuole, ovviamente, non c'è perdere. Il mio è già caldo. Io ho avuto fortuna perché Alghero è portata ottica, cioè qua verso Alghero è completamente sgombro, orizzonte libero, vedo Monte Doglia e tutti quei monti. Ma poi io sono invece tutt'altra cosa, io sono molto molto dietro con delle colline che purtroppo non riesco a saltare con l'ombre, però là, Santiago Otto già va bene. Quanto a te arrivo te? E come il segnale di Mirko da lui? Una curiosità, lui a voi quanto arriva? Ma è il Santiago 6? Prendetela per buona con questo smitter. Io ho parlato in due, scommetto che il bombo l'ha fatta la prova di forza. No, negativo. Non so se ce la fa. Questo, vabbè, ancora deve salire, ma ci mette un po' di tempo, perché è un po'. Questa quattro valvole ne ha due. Ehi, ma Mirko, quanto arriva a voi? Ma Mirko, a me mi arriva Santiago 3. No, io stasera non riesco a sentirlo bene. Forse con l'altra radio lo sento meglio, boh. Non lo so. No, non ho fatto la prova di forza. Ero zitto. Capito? Ho sentito Tino ridere, qualcuno ha fatto la prova. Ma Luca non l'ha provato con quello che ha lui, no? Scusa, non ho fatto nessuna prova, anche perché Antonio è molto più vicino di te, non è che Antonio a me lì mi tappa. Beh, vabbè, siamo vicini noi, io Marco e Antonio siamo vicinissimi, Tino. Appunto, non è che devo stare lì a fare la prova contro di voi, no? Dovremmo. Vabbè, Marco è linea ultica, come ha detto, quindi lo devo di più. Gappa, è come tu mi dici da via Milano, io cioè vado. Cioè faccio la prova con Bombonio, già la porto la blu, vai. Va bene ragazzi, dai, che mi attingo al fornelli ora, che sennò qua faccio tardi. Sono entrato a fare due prove così al volo, va bene così. Vi saluto, se ne avete voglia più tardi, sennò ovviamente vi salutate alle prossime. Ciao Mirko, se mi ascolti ancora, dai, ti saluto, un abbraccio, ciao, ciao. Ciao Mirko! Un po' basso di radio ti sento, eh! Aspetta un attimino, comunque ti ricambio Mirko, ti ricambio il segnale, è quasi di Santiago 4, radio 3, riesco a toglierti fuori, ma tieni presente che io sono un QTH Campagnolo, periferia di città, la Peolce, dai, non so se conosci la zona della Peolce, sono molto inoltrato, quindi è già un miracolo che ti ascolto. Ho capito. Va bene, dai, ti lascio in compagnia degli amici qua di Sassari. Vai Marco, dai, mi saluto, ciao a tutti. Ciao T, sentiamo, io non mi sento niente bene oggi, boh. Ma se schiaffo stanotte le radio che fine fanno? A chi le lascio le, i baracchini? A chi li lascio? No, perché se schiaffo qua ci buttano tutto nel cassonetto, mi senza scherzi di tutta tenne, baracchini, tanto baracchini sono, i baobao qui. Ma so io la moto. Beh, mi pare che è coso, è Marino. A Marino ha parlato. Buonasera, ciao Antonio, ciao Marco, ciao Luca, ciao Tino, buon pomeriggio, ci sentiamo e anche a Mirko se li sta ascoltando, buonasera, avanti Marco. Ciao, poi io ve lo lasciare, sono arrivate le pizze, ce la risentiamo. Ciao Marino, ciao. Ciao Tino, ciao Marco. Buona Ciao Tino, ciao Marino, mi hai sentito un po', un bel po'. Da posto Marco, sì. Infatti, per come mi sento oggi, guarda. Guarda, tutto a posto o no? Vabbè, diciamo, sto a posto, anch'io non sto molto bene, comunque, anch'io faccio molto ascolto, ma non ho anche più voglia di entrare, non mi sento molto bene. Vediamo se mi ascolta Mirko. Mirko, mi ascolti, buonasera. Benissimo, ciao Mirko, Marino da Sassari. Ok, avanti Marco. Ciao Marino. Buonasera Lucrezia, come andiamo? Ah, mi chiamo Lucrezia, cazzarola. La voce esce, non si riesce a fare. 9:18, bene si va. Ma tra me e Lucrezia, io non c'ho sassiccione, Lucrezia c'ha patatina, capito? Mi sa soia, sei Luca. C'ho il bius che vuole Gianni doppio rumbo. Ma è tutto a posto, sì. Tutto a posto, diciamo tutto a posto, questo periodo mi sentiamo molto bene, comunque stiamo facendo un po' d'ascolto e ciccia, non avevo voluto neanche entrare. Sono per salutare Marco e gli altri amici Antonio e compagni, proprio, mi hanno dato già un messaggio di salire che è pronto anche la carica. Comunque approfitto, ciao Luca, ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Mirko, alla prossima io chiudo. Luca, riprendi, ci sentiamo, vai. Mari, fatto quel lavoro là, sta a posto, sì? No, fatto, c'è da fare, fatto l'intervento e sono sui punti, c'ho un'altra visita, c'ho il 3. Guarda, fisicamente mi farà l'attacco e poi vedrà, e poi continuo così. Capito? L'intervento è stato un po' complicato perché mi ha ricostruito tutto l'osso, messo la placca e così via. Non era facile Luca, non era facile, ha tolto anche un'altra cosa, ha tolto l'altra volta un altro, diciamo, dai. Ma speriamo bene, ancora devo aspettare l'esito. Vabbè, meglio non pensarci, dai. Ok, dai, Luca riprende, io chiudo e mi stavo già chiamando la poc'anzi, dai, ciao. Ciao a tutti e quelli di per me, dai. Ciao Marino, ciao. Ciao Antonio, scusa, non ti ho salutato, io. Ti chiedo scusa, dai. Ci sentiamo con Luca riprende. Ciao Marino, va benissimo, dai, io ho il giovedì, devo andare a levarmi i punti, va bene. Buona carica e buon tutto, alle prossime, ciao Marino, ciao. Ciao, grazie Luca, ciao a tutti, dai. Antonio riprendi e per me quelli di ciao. Ciao Maris, ciao. Buona guarigione con tutto. Alla prossima. Ciao Marino, buona serata, buon tutto, alle prossime. Ciao, grazie Marco, ciao. Maurizio, nuovamente, ciao, grazie, ci sentiamo, ciao, alle prossime, ciao. Ciao ragazza, e si è. Poco fa che avevi tolto tutto dall'altro QTH. Sì. Ma per polemiche interne? No, ma cosa me ne faccio di due station? Perché poi muto di là, vengo qua, mi ribassa la carne, invece mi devo che, capito, no? Me ne farne una e basta, dai. Sì, ho sentito il Natalino un po' che era invece in quella situazione lì, perché lì appunto chi vuole seguire la TV, chi vuole stare in radio e si disturba una vicenda, capito, con l'audio, con la voce, purtroppo un po' seccante. Guarda, magari avendo un'altra sul tetra, meglio, lì al terrazzo. ho la paura, che cazzo, mamma mia, come di paranoia mi faccio. Si può staccare il braccio del, come si chiama, del, il fio da stendere, ma si va, io insomma attacchi d'uno, no, no, meglio, ripeto, era meglio se stava sul tetto, là sì, ma così non fa. Via. Ecco, la volta che la volevo a te mettere sul tetto è salito al farradore, così ho capito che ha fatto un casino, ha giù mai per farretti. E va, lasciato, vabbè, è che non ho residenza lì, non posso, mi devo stare zitto e basta, vabbè, è andata così, perché se non ho residenza lì non faccio proprio un cazzo. Vabbè, sì, un po' più delicato, comunque ho staccato, avvertite, però sono inutile buttare le platte. Va bene, io stacco, caro, mi piglio un coso di latte caldo, un latte bollente col miele. E ieri mattina a Piazzale Segni, per fare il figo, capito, in camicia, scendo dalla macchina, un freddo, un vento, porca miseria, camicia felpata, ma mi ha fulminato, non avevo niente sotto, mi ha fulminato. Invece in moto, che sono sempre più coperto, no, non mi frega mai, quando sono in macchina mi frega, perché in macchina mi metto il riscaldamento, poi esco fuori. Sopra la solita macchina l'ha cambiata. No, non ne vale la pena di cambiarla lui. Il motore va sempre bene. La carrozzeria è brutta, sì, è usurata, graffiata, ma il motore è un bonbon. Cioè, va sempre, alla fine non ha senso pigliarsi una macchina nuova per lasciarla in strada a farsela mangiare dei cannibali. È sempre la girai così? No, io non ho, mamma ce l'ha, è sua la macchina, io no. Un tempo avevo la macchina mia, poi quando qualcosa entrava, in nero naturalmente, che sia chiaro, poi è tutto finito. Ho detto, sei sempre l'Opelagia. Sì, ma non è mia. Ho capito, Marco. Era per sapere se avevi l'Opel Agila, tutto qua, che mi ricordavo io un Opel Agila, capito? Chiappa. Vabbè, vai Marco, si deve andare, vai tranquillo, tanto che apro io, mi sta vedendo un po' di abbiocco, perché ho cenato e mi viene l'abbiocco. Poi vedo che non c'è molta voglia mia alla fine. Adesso diventano tutti radiatori, almeno chi dà l'esame, adesso il 27 si svolta di nuovo. Cazzo, Juventus in 54 secondi ha segnato, cazzo. Io mangio busca dopo, vedrei che busca dopo. Adesso guardo la partita, non c'è nessuno che guarda la partita. Già sono qua nel caso, Marco, vai tranquillo, sereno, dai. Poi ti voglio trattare, tranquillo e sereno. Perché anche a me, sto venendo la biocca. Che cosa ti dava in pene, e perché io, Antone? Sugli occhi in gloria. Ah, ehi, sugli occhi in gloria. Sotto la mia testa avevo mangiato veloce, ho mangiato 7,5 di spaghetti alla carbonara, scendendo tutto il giorno. Figurati, non ho neanche cenato, mi sto bevendo la birra al limone, proprio per togliermi l'acidità dallo stomaco. Perché il limone fa tutto l'acidità dallo stomaco. Eia. A voi io stacco, dai, sono a terra, dai. Sentiamo Antonio, vado a pigliarmi qualcosa. Ciao a tutti, Luca, Antoneddu, che altro c'era? Boh, un uomo è andato a mangiare, poi l'amico di Alghero e tutti gli ascoltoni. Dai, migliori occasioni. Ciao a tutti, ciao. Marco, io sto vado alla foto, aspetta, guarda a te. Ciao Marco, ci sentiamo. È reale? E chi è questa Titti Manna? Sì, chi è? Anna. Ma chi è? Arisa, sembra Arisa di faccia, guarda, con quegli occhiali, con quella boccuccia. Ok, dai, chiudo, ciao. Ciao Marco, ciao. Guarda, ti di dire. E beh, e allora? Tutti fuggiti sono. Gappa, gappa. Per telefono, 2 minuti. Attenzione 10. Popo, ci sei ancora? Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Vabbè, ciucucciù. Allora, dimmi tutto, dimmi tutto. Mi porto questo apparecchio, ti faccio schiattare. Portalo. A fine mese così mi fai schiattare, dai. Facciamo le prove di forza, facciamo una volta. Ascolta, devo staccare quel cazzo di antenna della VU, devo staccare. Ho capito perché mi davano le 5 distorsionali. Ci metto quella, mi davano le 5 da mano. Devo per forza, secondo me, controllarmi quel palo, non sto facendo massa. Questo è poco ma sicuro. E in pratica l'antenna mi fa la riflesso. Ma ci metta... Se agganci quella ti dà problemi. È distante adesso, distante due metri dalla mano è distante, è la stessa altezza però è 2 metri, capito, distante. Come lo sali 1,5 stazionari, ricordo ciò adesso. E secondo me non sta facendo massa il palo. Adesso appena migliora il tempo salgo su con le chiavi e ne stacco la mantova. Io una bella graffiata con cosa, o con la mona, o con quello che, e poi c'è il piazzo se non un casino, grazie. Anche perché Bruno già lo sai come sono fatti dalla mantova, è un togliaio a me. Se li piazzi non riesci più a smontarli. Quindi mi sa che ci vuole la mola, tagliare tutto e mi pare di piazza la 27 e se la piglia in culo, a me non devo stare a diventare matto. Quello lo scegli tu. Sbagliato, vai. Ma ce l'hai ancora quel tipo di antenna, vuoi far arrivare Energy? Già costa una cazzata, costa 65 euro la BA27L, me la posso dire quando voglio. Costa una cazzata da internet. Mi dirò quella, è leggera, pesa mezzo chilo e se la abbia, ci metto un palo telescopico e a posto di essere 3 metri la sollevo di 6. Dramato ma è troppo bizzante. Qui adesso è buona anche questa Venom, mi dice che è una bombetta. Stavo parlando tutti bene, leggera, antenna leggera e dice che è pompa forte pure. Sì, c'è anche la sigla tornado, cioè 7 metri radiali, insomma, 7 metri e 2 ed è lunga 5 metri, 6 metri mi pare, 7 metri, adesso non mi ricordo. È anche leggera, non è molto grossa, quindi dovrebbe essere facile da piazzare. Solo che costa 180 euro quasi. 7 metri radiali, se ne sono 4, mica sono lunghi mica. No, tornato niente. 7 metri, ma cazzo, ma che la ditta sta aggazzata? 7 metri di radiale, cos'è? Come si spetta prima del sole? Prima del subito. No, non la prendere quella lì, Antone. Perché ho letto dei forum, dopo un po' di tempo si spetta. Ho capito. No, c'è comunque, neanche Marco ci credeva di quell'antenna. Gliel'ho mandata, gli ho fatto la fotografia e gliel'ho mandata. E la stanno vendendo, costa un bel dinaro, costa. Per quello prendo la Energy 5 ottavi e gli metto 3 radiali di Grand Prix e sono a posto. Ma vai, che se bene così esce quella, non ha problemi. Non ha problemi chi s'antenna. Però... come ti devo dire? Non costa neanche poco la Superman, mi costa 160 e passami. Sì, la Superman è bella, la verità come antenna, il problema è che pesa, hai capito? Come adesso piazzata la lavanta, ma la dovrei entrare a cazzogliere, quel palo che c'è, comprare un palo nuovo zingato, è quello che c'è, ti mette la zingatura e ti mette vecchia, che è diventata bianca, capito? E quindi non sta facendo massa per quello. Se gli metto qualcosa di fronte mi crea problemi, quindi adesso bisogna stare con tutto, un momento opportuno, faccio tre fuori per metterci tre gaffe davanti alla dove c'è il terrazzino, così mi viene meglio a fare il lavoro, capito? Vedo due pali, uno da un pollice un quarto, uno da un pollice, mi faccio un palo telescopico. Quando voglio la scendo, quando voglio la salgo. L'antenna, senza tirate, senza nulla. Perché il palo non la faccio appoggiare a terra. Bene fai. Un'antenna leggera ci vuole lì. Gli si attende i bizanti, boh. Un casino. Ma c'è anche questa Gimpollo che è molto interessante come antenna. Pompa voci. Non mi fido qua, no, con la Gimpollo io. Dopo vento c'è, ma stai scherzando, sai come si è piegata la mantova ieri, non è reato. Se mi metto la Gimpollo me la trovo le passo di fronte. Per quello c'è un tema che non la pesca giù, se sta vivendo a casa di Giovanna. Capito? No, non vedevo in Kiwi, no, devi c'è antenne. Non si preoccupa, neanche io ho l'antenna che renda. Ma comunque questa Venom che stavo dicendo adesso è buona, è molto buona, non ti dà di... Tu come la piatti, quell'antenna non ti dà stazionaria, perché è depreparata, capito? È pompa, un bel pompa, c'era Franco a casa sua, è pompa, un bel. Sì, già lo so che pompa parecchio quell'antenna, c'è. Già lo so. Va, vediamo un poco. Cosa vuol dire che io? C'ho le 5 stazionarie. Le ho controllate ieri con Rosmet. E che adesso uno di questi giorni vado a salire e mi ritiro il TM1000. Mi serve per portare il Rosmet al codatore. Non ne posso fare a meno. Mi piglio il tram e vado dove lavoro e dico a scuola, a me mi serve il Rosmet. Portalo che... Tanto tu non devi fare niente, è mio, mi serve a me, e se no cosa mi brucio, di nuovo l'apparecchio o lineare, non saranno. E cazzo. Come stai misurando la stazionaria? C'è il modello 500 come Rosmet, ho capito? Però mi serve il coso, il TM1000 mi serve, che l'ho dato a lui, gli ho prestato, col cavetto, adesso mi serve per forza. C'è stazionaria, mi devo accordare per forza con quello, lo smetto. Antonello, non è là, se ti serve non è dare. Tutte che prezzi di cose, se serve a te da voi. Adesso domani mattina ci passo. Il telefono, dico, guarda, sono davanti alla pizzeria tua, passa qui e mi porti il Rosmet, dico. Cazzo, posso stare senza il Rosmet io. Se riesco a bruciare l'apparecchio io. C'ho 2-5 stazionari, non lo so io. Non posso manco pompare, se metto a pompare guai. Salgo a minimo a 2. Ma quell'antenna devo con la patta intera, ma dici che si sia praticata tutta? Non lo so, no, non penso, no, mi sembra di no comunque. Non è a ruggine nella piastra sotto, quindi siccome c'ho il 58 penso che sia magari entrato acqua nel PL e il 58 si è diventato magari di colore, non so come diventa. Come dire, la calza davanti alla TV che si fa con la patina bianca, quindi non ho cambiato per portare il cavo. La patina verde? Non lo so come sia la patina verde, ma penso che vorrà cambiato questo cavo qua, senz'altro. Sicuramente. Io mi sono dimenticato di fare una cosa. Uia, che testa che c'ho. Cosa devi fare? Praticamente mi sono dimenticato il bollino grasso nell'UBL. Vabbè, glielo metti il grasso, c'è tutto il tempo, non è che sia questo grande. Uno e uno è stazionario, si muove appena, è ben accordata l'antenna, pompa pure. Sì, proprio funziona. Sì, come dico. lo dicono, eppure io mi trovo bene con questa. Lo riposo di nuda. Aspetta, mi sta chiamando Sara. Aspetta un secondo. Antone, ti stavo dicendo che va bene, cavolo, capito? Io non mi posso lamentare, la verità. Questa, io non, la verità, non ho comprato nulla, ma l'altra mio padre me la lascia, capito? Io l'ho piazzata, ho detto vabbè, poi mi metterò una 50, invece ti dirò che sono veramente soddisfatto, non mi posso lamentare. No, già c'è bene, è perfetta, ci mancherebbe. Tutti didili, però funziona bene. Ah, quindi funziona bene. E un treno come antenna. E tu hai detto l'altro giorno, cazzo, che non ti piaceva, che è una merda, così, a me funziona bene. Cioè, questo modello qua, poi, quello era aggiustato a me. Quello già l'hai visto che pompa. Stai parlando della Stommo o stai parlando dell'altra? La lingua lo sai che io non ho usato due e non mi sono mai andata bene a me. La Stommo è peggio. Non lo so. Io la penso così. Non è come la PA27L o come la Manta o come la Superlem, il discorso è quello lì. Però io ho usato il modello precedente di quella che stai usando tu, della Ringo. Ho usato quello lì io. E c'erano quelle tarature strane, capito? C'era la striscetta dove in pratica fare la misura, diventava acqua, cazzo, andava in corto, non c'era niente da fare. No, questa è diversa. Quella l'ho fatta a 4,80 metri e va benissimo. Questa è diversa, Antonè. Questa c'ha le viti, c'ha. Tu metti la vita e deve essere cosa come la manto, ma obbligatoria, questa che ho io a casa. Ed è il modello più vecchio, Io ieri sono salito per vedere se si muoveva come quella che un deposito aveva aggiustato. Domani che si è mollata. Oh! Antonè! Scappa, mi hai sentito che ti ho detto? Io questa antenna qua, c'ha i cosi obbligatori, è diversa dell'altra Ringo, capito? Io l'ho controllata l'altro giorno, invece si è mollata qualche cosa. Ah, meglio così. Io sto usando la cosa io. L'altra parecchio sto usando. Così non me lo... Cioè stazionari, salgono... L'ospite sale quasi a fondo, quindi ho preferito staccare il Saturnecco per non avere problemi. Adesso ho il 3009. Con molta meno potenza. Uguale, 15 watt questo tira fuori lo stesso. Ha capito, Antonè? Hanno fatto dei modelli diversi. Adesso con l'ultima che è uscita di antenna, è diversa ancora. Guarda, sono tornati lì al coso come da una volta. Quella là io non riuscivo a tararla, era scende di gabbo. Ho guardato la tabella, l'ho messa a 4,80 metri, ho tarato l'antenna con lo sub. È meglio così. Invece a me, visto, non riuscivo a cavarne i piedi. La volta, ho detto, ieri l'ho regalata un amico di uso, gli ho messo una vite perché era l'unico modo per non farle scendere lo stilo, perché c'è quella specie di dallo stilo alla massa c'è una specie di spugna, hai capito? Dove si bagna, dopo un po' se ne scendeva lo stilo in fondo, andava in corto. Allora ho messo la spugnetta, ho fatto il fondo con una vite, era perfetta e usciva bene da usilo, capito? Oh, guarda che ho sul tetto proprio non ha ceduto nulla, ma secondo me era proprio diversa. Magari hanno migliorato adesso, perché un sacco di gente si lamentava, la installava, va in corto, eccetera, eccetera, qui. Almeno ho migliorato un pochettino. Ho detto, ma che hanno costruito di ringo è tutta fatta in rame, con un tubo di rame d'acqua, mi. Però, tu immaginati, questo tubo era almeno due pollici di diametro. Ma cosa che hanno fatto? Cioè, io ho quella di 10 anni fa qua, che veniva costruita in un'altra maniera. Adesso poi mi hanno dato quella là, quella che c'è in deposito, capito? E adesso è uscito il terzo modello che è completamente diversa, è molto più robusta. Meglio così, la stanno migliorando in pratica, hai visto? Mano a mano che la gente si lamenta, migliorano le prestazioni, il discorso è quello. Ma pure lo preso c'è un bando. 50 euro, tu figurati, ti dico di quella Gran Prix che avevo comprato io. Io avevo pagato 50 euro io. E sono già più di 15 anni che sono passati. Immaginati. Io ritorno là e mi ha detto 50 euro e tu la Gran Prix. Se la giovana era ancora viva. Dice questa così, mi ha detto, ma se siamo sicuri che resista? Sì, non ti preoccupare, non si piega. Dopo un mese si è piegata in due. Gli ho detto, ma c'era poco bella con l'antenna, gli ho detto, signora Giovanni, si è piegata, gli ho detto. E a prendere quelle condizioni, gli ho detto, ho preso, ho staccato, e ho cambiato antenna, gli ho detto, ne ho comprato un'altra. Non si poteva vedere, detto, dalla strada, gli ho detto, faceva solo schifo, detto, a vederla. Già lo so già. Però adesso, come si dice, ma no, era Sirio, io Sirio non ne ho mai visto, sicuramente era partita nostra, se sarebbe stato il lemma, è una partita che loro non hanno mai preso sicuramente, le biglie della Vulca e sono andati mare. Comunque ti stavo dicendo che così è. Se l'hanno migliorata, ma già quanto costa questa antenna? 60 euro, l'ho vista anche su internet, c'è lo stesso prezzo. E beh, se la migliora non se la fanno ripagare. È logico che se la fanno pagare, ci mancherebbe. Hanno cambiato anche lo sub. È ora. Praticamente sì, è sempre colpire cose, però è molto più largo, non so se sia meglio o peggio, non lo so, è diverso proprio. Quello che c'è a Saverio proprio era un casino, tra l'altro, già l'hai visto, non riusciva a cavare le piedi Saverio, ha preso la ringo e ha fatto una gaggata, già te lo ricordi. La messa lì, ha detto, Saverio, inutile che hai messo la ringo, ha detto, non le caverai più mai i piedi, ti volevo dare, detto, quello stile di boomerang, ha detto, ti mettevi un radiale, gli ho detto, eri tranquillo, uscivi tranquillo, e invece ha avuto fare la testa sua, mettere una ringo messa così, attaccata a terrazzino, senza paletto, senza nulla, cioè la specie di paletto, quanto sarà stato lungo, non penso più di un metro, cosa vuoi fare, dove vuoi andare con quello, ti crea problemi, ti crea. Non va bene così, la tela vuole sul tetto, non è fatta per metterla così, è logico che se trova un ostacolo poi ti dà stazionaria. E dove sfoga quell'antenna? Infatti, ma io ho detto, se vuoi quell'antenna che ho io, gli ho detto, ti do quella, ti metti quella, gli ho detto, il terrazzino e vai bene, tu vedrai che stazionare non ne riesci benissimo, gli ho detto, perché è una vecchia boomerang, gli ho detto, di quello è modello vecchio, quindi figurati, detto, vedrai che già esce bene, e invece ne va, dice no, metto quella, fa come vuoi, cosa vuoi ti ripeto, i soldi sono di tutto, mica miei. No, quella la devi mettere sul tetto, non così. Ho sbagliato. Ui, ui, ui. E infatti la bomba adesso deve metterla sopra il tetto quando sarà il momento. Adesso non lo so quando lo faranno salire, se lo fanno salire in quel tetto. E sta là la bomba. Aspetta, le vado subito. 2 minuti. Cappa. Yeah. Ola 10, ola. Avanti, avanti, E come andiamo? Bene, bene, tu? Bene, un attimo di pausa, mi sono entrato. Sei solo? C'era un torello, c'era. Capo a capo, vedi, tutto bene? Tutto bene, sto bene. Capo, addirittura, siccome ce l'ho, ma c'è anche un'altra postazione, addirittura vediamo se lo sento. Allora, mi arrivi un bel forte stasera. Ma va, mi hai sentito tu? Sentito, qui sei a fondo, fondo scala, ma hai visto tante tacche su questa baracchina? No, non hai capito, non da questa postazione, c'è un'altra postazione pure. Cappa, cappa, ma qua ti sento stra benissimo. Cappa. La buia. Però sei liscio o gassato stasera? No, no, normale. È normale, gli abbezzi. No, arrivo molto forte perché io con la zona c'ho sta aperta dove abiti tu. Cappa, cappa, ma cosa succede anche meglio io oggi? No, già sei forte qua. Cappa, adesso devo sistemare per parlare con il guscio a fissi, prima o poi dobbiamo riuscire a sentirci bene. L'ho sentito ieri da Bastazione 2. Cappa, cappa. Io invece non ci sono riuscito perché ieri non stava funzionando bene, c'avevo un sacco di stazionarie. Ma è possibile che funzioni a giorni per le stazionarie? Se piglia Eva gli può dare problemi. Cappa. Ma funziona anche in funzione dell'umidità dell'aria, indipendentemente dall'antenna per le stazionarie? L'hai vulcanizzato il PL? Poi c'ho dentro casa, io c'ho tutto ancora dentro casa, capito? Dove vuoi andare? Vabbè, aspetta che adesso quando mi arriva la boomerang seria. Sì, ci voglio mettere quei termorestringenti, ce li presenti? La pistola d'aria calda, quando mi arrivo gli faccio la cosa, prima lo sparo bene, dopo gli metto un termorestringente e speriamo che non entri acqua. No, già va bene. Lo sai dove c'è il PL, cosa devi fare tu? Gli metti quello e poi gli passi il grasso della vasellina, vedrai Eva non entra. Cappa, questo me l'avevi detto anche l'altro giorno che lo stavi facendo tu, mi hai detto, no? Cappa, è meglio così metti il gatto la fatichina, giocava dello BL da scultetto, ma io ho messo un po' di vulcanizzante, però glielo metto il grasso di vasellina, perché sono sicuro che quando non è un gave da boe è fuori lucido lucido. Cappa, beh, lo protegge perché è idrorepellente, no? Cappa, ma sai come li faccio io PL? Dopo di averli saldati e tutto, sopra dove c'è il coso, li metto un pezzettino di cose di vulcanizzante. Dove hai girato la calza, dici, nella parte dove avviti? No, dopo che hai fatto il PL, proprio lì dove c'è, nella giuntura di sopra. Io sono abituato a farli così. Capo, dove finisce la vitatura, dai, diciamo, dove c'è la parte nel sedere del PL? Lì, tra il capo e il coso, lì pongo un coso, adesso io li posso così. Capo, perché lì l'acqua si può infiltrare effettivamente? Sì, ma lo faccio anche per casa così, cioè li faccio tutti e due così, anche per non pagare l'umidità. Cappa, cappa, è interessante. Io invece ci ho messo di quei termorestringenti come i cavi che vendono, ma giusto per fare le prime prove. Cappa, cappa. Guarda che sto, cosa ha detto mal riposo? Ciucchicciu. Riesce a vedere? Cinque. Ehi Antone, sono in compagnia di Andrea, lo senti? A voglia che lo sento. Ciao Antone, buonasera. Ciao Andrea, buonasera anche a te, ben sentito. Dove sei? Mi hai detto, aspetta, adesso mi ricordo mai quella zona. Io sono via Mendola Bassa, Antone. Via Mendola Bassa, quindi zona Concera. Ma proprio vicino vicino lì. Allora già sei da qui, già esci bene da lì, mi sei mette a posto. Sono basso Andrea, capo d'ottobre, sì. Chi arriva più forte Andrea? io tu sei qualcosa di esagerato, te l'ho detto, non pensavo di avere così tante tacche nel display. Ma è esagerato, guarda che io sono un gozzo piccolo, non è che sia tanto lontano la penna. Ma arrivi proprio bene bene, capito? Antonello mi arriva un Santiago 7 e una radio 4, però sono messo male io come antenna, eh. Che a me arriva 7 lui, radio 4. Quindi, se sei via Mendola, io sono molto più in alto e molto più distante, e invece Antonio c'è.